sale su di noi dal petto. Come un conato io nato sbagliato, il gusto del guasto che io non riparo. Il conto è salato e ripetutamente strisce e colpisci. Sei come un serpente a sonagli, mi abbagli, non mi cambieranno. I tuoi soldi ti sbagli, non mi avranno mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai. Sono stato e lo sarò sempre. Quale futuro se questo è presente? Tutto alla grande sulle mie. E a tre giorni dal 15 ottobre 2011, una giornata caratterizzata da una manifestazione gigantesca finita in guerriglia urbana, come non dare un commento da parte degli studenti in questo spazio che abbiamo in Radio Onda Rossa? È quello che proprio vogliamo fare all'inizio, insomma, per aprire la nostra trasmissione. Questo martedì è un commento, un minimo di analisi dal punto di vista degli studenti. Eh sì, perché infatti gli studenti, non solo romani, scesi da tutta Italia, erano centinaia e migliaia, non in un proprio spezzone, ma insieme all'università, insieme alle realtà sociali di lotta per la casa, lotta per il precariato, e hanno partecipato. E al corteo si sono trovati anche in alcune dinamiche che probabilmente non pensavano o che li hanno trovati un po' inaspettati. Beh, neanche diciamo vogliamo commentare quello che è uscito sui media di larga scala, perché insomma speriamo sappiate tutti che naturalmente queste situazioni sono molto difficili da analizzare. E sicuramente l'analisi pura non è quello che cerca di fare la Repubblica o il Corriere della Sera piuttosto che il TG1, ma è una totale semplificazione che spesso porta a delle discussioni molto polemiche e principalmente inutili e distruttive, che appunto in quanto distruttive poi non portano a niente. Eh sì, perché non è la Repubblica, il Fatto Quotidiano, il Corriere della Sera o i vari TG che pensano solo a fare ascolto, avere il titolo del giornale più pronto, violenti distruggono Roma o altro. C'è stata violenza sicuramente, l'abbiamo visto tutto, chi stava in piazza e chi non stava in piazza, ma forse dobbiamo anche capire cosa c'è stato veramente, il problema che questo 15 ottobre e le problematicità che questo 15 ottobre ha tirato fuori. La distinzione tra buoni e cattivi è una distinzione che non ci piace e che non vogliamo diffondere. E che sicuramente non c'è, perché i giornali naturalmente in questi giorni hanno puntato a nascondere tutte le motivazioni che il movimento portava avanti solo con le discussioni sulla violenza, ma in realtà di fondo, violenza o non violenza, il movimento è unito, continua a portare avanti un ideale e delle idee soprattutto attraverso le manifestazioni di piazza. Sicuramente, poi non siamo qui a giudicare, secondo me non siamo un tribunale che deve giudicare quello che è stato. Possiamo sicuramente forse anche dividere i momenti della piazza, cosa è successo in piazza in un primo momento tra le vie romane, in un secondo momento la resistenza che è sfociata a San Giovanni, in cui le cariche della polizia hanno fatto sì che non solo il numero, non si sa quale, non siamo noi qua a dirlo, di manifestanti iniziali, aveva dato fuoco a macchine, distrutto banche e quant'altro. Quello che è stato a San Giovanni è stato diverso, forse questo possiamo dirlo, e ne siamo consapevoli che a San Giovanni la complessità della piazza, che vedeva studenti, disoccupati, precari, di tutto e di più, ha dato vita, diciamo, a una resistenza, vogliamo chiamarla così, contro le cariche della polizia. Beh, diciamo che non possiamo solo parlare di estinzione di tempi, di studenti e di precari, ma possiamo anche parlare di vari contrasti all'interno del corteo che non hanno permesso amalgamazione del corteo, di modo da riuscire ad andare tutti insieme a una meta, ma a avere tanti piccoli cortei, tanti piccoli spezzoni discordanti fra di loro, e ciò ha contribuito sicuramente a non portare a buon fine un corteo del genere. Ecco, probabilmente in quella giornata la rabbia che le varie realtà portavano in piazza non si è riusciti a, come dire, a canalizzarla, a portarla a un obiettivo, ma è esplosa prima, praticamente all'inizio del corteo, cosa che ha fatto sì che il corteo, diciamo, si disperdesse in qualche modo, perdesse gli obiettivi e poi sfociasse in piazza San Giovanni, dove è iniziata appunto la guerriglia urbana, che però, insomma, l'avete sentito probabilmente uscire da questi microfoni nelle ultime ore, negli ultimi giorni, non è stata solo dei 200 black bloc di cui parlano i giornali, questi black bloc di cui si parla negli ultimi anni, che sinceramente noi dalla piazza ancora non abbiamo visto, ma è stata una resistenza in realtà di massa, a cui hanno partecipato i giovani, a cui hanno partecipato i precari, a cui hanno partecipato le componenti di tutte quante le realtà che fanno conflitto negli ultimi anni e che hanno intenzione di continuare il movimento. Ecco, questo è un punto fondamentale, ossia, ok, c'è stata questa giornata che forse non è andata come volevamo, non ha avuto uno sfocio mediatico grandissimo e positivo, ma sicuramente non ci vogliamo fermare qui a fare polemica, penso lo volessi dire tu. Sì, ma sicuramente, infatti, anche se non ha avuto lo sfocio mediatico che ci aspettavamo e che volevamo, non ci sentiamo di poter affermare che il movimento si è diviso e si è spaccato, appunto, come invece giornali come Repubblica, Corriere e quant'altro affermano. Ecco, poi sicuramente leggevamo proprio adesso sulla Repubblica, che abbiamo sotto mano, una dichiarazione del sindaco Alemanno, insomma io sorrido adesso, vi chiederete perché, che dichiarava che non saranno più autorizzati i cortei adesso, insomma una repressione burocratica casa totale, che in realtà a me sembra che da parte di noi studenti e di tutte le realtà antagoniste c'è sempre stata questa repressione e noi non ce ne è sempre fregato un cazzo, nel senso che noi siamo sempre scesi in piazza e ci tenevamo a dire che continueremo a scendere in piazza senza che nessuno ci possa porre delle limitazioni. Sicuramente, qua la Repubblica, il Corriere, per citare i due quotidiani più diffusi in Italia, titolano cortei vietati per un mese a Roma, Roma un mese senza cortei. Intanto ci sembra una reazione allucinante, qualsiasi cosa fosse successa ed è successa a San Giovanni non legittima una cancellazione di un diritto, cioè il diritto di manifestare, come se poi non si permettesse all'immigrato in quanto tale di avere il diritto all'istruzione o il diritto alla salute, una cosa inconcepibile. Poi noi studenti qua a Roma, come anche nelle altre città, non abbiamo mai amato le autorizzazioni dei cortei, anzi spesso non è mai stato un problema che ci ha interessato. Comunque, ritornando anche a quello che dicevamo prima, il dato è questo: ciò che è successo a San Giovanni in piazza il 15 ottobre, intanto le centinaia e centinaia di migliaia di persone che in modi diversi sono scesi in piazza, ma poi anche la resistenza che c'è stata, espongono un problema. e come problema deve essere trattato. Quindi dobbiamo anche bisognerebbe interrogarsi del perché tantissimi giovani, giovanissimi e meno giovani sono rimasti in piazza a, insomma, tra virgolette, a difendere quella piazza perché questa rabbia è uscita fuori. Qua era solo il primo appuntamento dell'autunno, ma è evidente anche una radicalità delle questioni e anche poi delle pratiche di conflitto. Il discorso è molto complicato e articolato, ci rendiamo conto che potrebbe essere pesante, e così abbiamo pensato a una pausa musicale con Erika Mou, Giungla. Di abitudini viaggio soltanto con i documentari in TV. In questa giungla di abitudini credo che con un discorso ben sceneggiato potrei risolvere tutto. Allora cerco di parlare bene, ma pressi il mio accento a non andare bene. E vorrei soltanto essere in me. In me. In questa giungla di abitudini mi convinco che sia solo un problema mio svegliarmi la mattina scattinata. In questa giungla di abitudini mi convinco che sia solo un problema mio non comprare il primo vestito che provo in un negozio che a volte sta bene al manichino e non a me, sta bene al manichino. Riuscire a farsi largo, una maschera che sta bene al manichino, non a me sta bene al manichino, non a me sta bene al manichino, sta bene al manichino, e vorrei soltanto essere in me. In questa giungla di abitudini vivo soltanto con i reality. Di abitudini, credo che con movimenti coreografati potrei risolvere tutto. Allora cerco di ballare bene, ma pressi è il mio corpo a non andare bene. E vorrei soltanto essere in me. Mi convinco che si possa davvero viaggiare aggrappati ad una liana di speranza. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving. got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. See, I got a woman way over town. Oh, yeah, oh, she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover, man. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah, don't you know she's all right? Don't you know she's all right? She's all right, she's all right. E dopo I Got a Woman di Ray Charles, canzone che, come ci ricordava la compagna qui di fronte a me, ormai ci accompagna da due trasmissioni. E, ve lo ricordiamo, siete sintonizzati su Radio Onda Rossa 87.9, 0649 1750, il numero da comporre per chiamarci. Stavamo parlando del 15 ottobre, stavamo facendo delle riflessioni su quelle che sono state le dinamiche di piazza, ma in realtà non ci vogliamo soffermare troppo su questo, perché pensiamo che a un certo punto diventi superfluo, ma è bene ricordare i motivi per cui scendiamo in piazza e tutte le realtà vicino a noi scendono in piazza. Forse sì, perché proprio il problema centrale non è i giovani o meno giovani ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione il 15 ottobre, ma il problema qui sono i politici, il problema qui sono le banche, questa, diciamo, dittatura finanziaria che è ormai dall'alto, senza nessuna legittimazione neanche di rappresentanza, parvenza di rappresentanza democratica, obbliga governi a realizzare determinate manovre economiche, determinati tagli. E non è il nostro debito, questo si è ripetuto molto in piazza, sia il 7 ottobre e soprattutto il 15 ottobre, ha un movimento globale, si è mosso il 15 ottobre, ricordiamo, non solo a Roma ma in mille piazze in tutto il mondo, in 80 paesi diversi si è scesi in piazza per dichiarare questo. Non è il nostro debito, è il debito dei politici, delle banche, della finanza, di una classe dirigente che ormai a nostro avviso ha fatto il suo tempo e che se ne deve andare. E proprio dopo questa giornata del 15 ottobre, dove l'opinione pubblica, insomma l'occhio dell'opinione pubblica è stato spostato su altri argomenti che sì, forse sono degni di una discussione, ma non per questo devono rubare spazio alle nostre motivazioni e ai motivi per cui scendiamo in piazza, è proprio per questo che dopo questa giornata bisogna subito ricominciare, deve essere una giornata di rilancio, una giornata che ci porti in assemblea a continuare a costruire il nostro movimento, perché il nostro movimento non si, insomma, pensiamo di averlo dimostrato ormai, non si ferma dopo una giornata dove l'opinione pubblica è stata sfavorevole. Noi abbiamo degli ideali e sicuramente non siamo solo dei violenti che vogliono andare in piazza a bruciare le macchine, ed è proprio per questo che, nonostante il 15 ottobre in qualche modo c'è stato sfavorevole, noi continueremo a perseverare nella manifestazione dei nostri ideali. Sicuramente qua è importante forse dopo il 15 tornare nelle scuole o nei luoghi in cui le realtà sociali, i movimenti agiscono ogni giorno, quotidianamente, in assemblee, nei collettivi, per avere sì una riflessione su quanto è successo, ma subito riuscire a rilanciare, subito ritornare a parlare dei temi importanti, perché quello che si è detto con la giornata del sabato è che ci sta un movimento globale che ormai stanco di questo sistema, ne ha decretato la crisi dal basso e non accetta che paghi sui propri diritti, sulla propria pelle ciò che altri dall'alto hanno deciso. E quindi se per sono anni ormai che si scende, anche negli ultimi, soprattutto negli ultimi 2 anni, negli ultimi 3 anni, siamo scesi come studenti per difendere il diritto allo studio, avere un'istruzione pubblica, adesso la ricetta delle crisi sono un taglio di diritti, quindi della salute, della casa, una mancanza di lavoro, disoccupazione, contratti in nero. Tutte situazioni vogliono far pagare la crisi a chi sta già, chi la sta già pagando, chi sta già in situazioni comunque più di povertà. Ecco, ricordiamo che il 15 ottobre non è stato un caso isolato, cioè non è stata la prima manifestazione dell'anno, non è stato una mattina centinaia di migliaia di persone si sono alzate e hanno detto scendiamo in piazza, ma ricordiamo che abbiamo settimane di lotta politica precedenti che hanno formato l'ambiente e la base perché il 15 potesse essere una giornata con il più alta affluenza in piazza che abbia mai avuto il mondo, appunto. E quindi appunto ricordiamo che abbiamo avuto una settimana di lotta davanti alla banca a Via Nazionale, ma non solo a Roma, abbiamo avuto una settimana di lotta a Milano con varie azioni che probabilmente tra poco ci diranno direttamente i ragazzi di Milano che abbiamo in collegamento. E appunto ricordiamo anche il 7 ottobre, prima giornata di mobilitazione per gli studenti, che hanno fatto vedere veramente di chi era la città e che cosa e come manifestavano gli studenti a Roma. E soprattutto ricordiamo che torniamo da un'estate caldissima in cui sono state approvate finanziarie, riforme, e siamo stati sballonzolati da un titolo di giornale all'altro che ci diceva che l'Italia cadeva sempre più in un baratro economico da cui probabilmente non sappiamo neanche se usciremo. E quindi appunto il 15 non è stato un caso isolato, è stato un caso di esplosione di rabbia perché la nostra Italia sta cadendo in una crisi da cui solo una classe politica migliore ci può salvare, ma a quanto pare la nostra classe politica non è all'altezza e soprattutto è una classe politica corrotta e piena di mafiosi e imprenditori che fanno solo il loro bene e non quello del popolo. E proprio dicevamo, la scorsa settimana è stata una settimana di mobilitazione per Milano, che ha portato avanti una delle campagne, che è quella contro le banche ritenute responsabili del debito pubblico. Sì, perché ormai è una verità consolidata anche all'interno dei collettivi studenteschi, dei movimenti studenteschi, che non è più il ministero in questione a essere il nostro interlocutore, ma qua si parla, abbiamo cominciato a parlare di crisi finanziaria, di banche, di associazioni di rating che declassano e quando li pare, secondo parametri che sono fuori comunque dallo Stato. E proprio la settimana scorsa è stata una settimana di forti mobilitazioni a Roma, come a Bologna, come a Milano, come in tutta Italia, contro le banche. A Roma abbiamo avuto l'esperienza di Occupi Banca Italia, con un'accampata di 3 giorni pre 15 ottobre, e a Milano invece un venerdì di corteo nelle strade della cittadina. È un compagno del CAS che ci sta aspettando al telefono, sta aspettando che il telefono squilli, allora facciamolo squillare, aspettate un attimo mentre prendiamo il collegamento, intanto ascoltatevi Kalashnikov di Goran Bregovic. Thank you. Allora, ci siamo stufati della solita canzone che il nostro compagno manda sempre, sceglie sempre le stesse canzoni, ma d'altronde che è lui. Che rompipalle, oh, a me mi piace, stai la sempre te alla regia, ma basta. Adesso abbiamo preso il comando della regia e quindi mettiamo una canzone che piace anche a noi. Visto che si parla tanto del blocco nero. A voi una lucida descrizione del blocco nero. Come schegge, fuori dalla legge, fuori dal copione d'una fiction che non regge. Il gregge volge sordo al precipizio, il lupo paga il prezzo del supplizio. Perde il pelo ma non perde il vizio, a comizio dalla rupe. Chiama i lupi e le sue lupe, facce cupe che si scrutano nel buio, nel garbuglio delle voci tra gli audaci che scompaiono. Nel pantano dove gli angeli si infangano, si infrangono. Tirpide illusioni contro l'ordine dei cloni, contro veti, costrizioni. Le opinioni sono carta straccia, ho solo queste braccia di fronte ad uno sgherro che mi punta il ferro in faccia. Se faccia la mia macchina, conosco già la tattica, schedato dagli sbirri per le idee che metto in pratica. La mia grammatica è materia d'ascensore, materiale conduttore, tramando l'epopea di un disertore. 24 su 24 ore, la rabbia corre dentro le mie vene come plasma. Testa bassa nel marasma, come il popolo di Algeri nella casba. La guerra di un esercito fantasma. Purtroppo abbiamo recuperato il collegamento da Milano. Tagliamo sta canzone che vi piaceva tanto. Io sono molto felice perché mi avete elevato la mia. E allora presentiamo questo collegamento che abbiamo. Sì, vediamo appunto come da tempo è stato affrontato il problema generazionale, appunto di una generazione fatta da ragazzi, da precari e da studenti che appunto non hanno altro futuro che quello di campare appunto sul welfare familiare e che hanno la pretesa appunto di cambiare le loro scuole dal basso, chiedendo appunto uno stato sociale, uno stato di diritti e risorse e strutture appunto per le proprie scuole. Ed è ormai da tempo che si scende in piazza uniti sotto gli stessi slogan che sono Not Our Debt o Safe School Not Banks. Allora, possiamo adesso raccontare un'esperienza appunto che c'è stata il 14 ottobre in seguito appunto la manifestazione anche del 7 qui a Roma, della quale sono protagonisti i compagni di Milano. Ci siete? Sì, ciao. Ciao. E vi va di appunto di raccontarci la giornata del 14? Sì, allora, veramente è una giornata molto, molto importante, perché comunque sia rientrava perfettamente nel discorso della Global Revolution di 14-15. E appunto abbiamo provato in testa comunque per la seconda volta nelle settimane, dove siamo usciti in tanto in parte lì, per il di questo Nordest di cui si parlava prima. Abbiamo fatto un antidance a suo secondo, con sette eravamo entrati la storia della Moody's, la gente di Rettino, siamo questa volta entrati nella storia di Goldman Sachs, una delle principali banche, una delle più prestigiose banche secondo il loro, secondo i loro parametri, ma ovviamente quindi anche le speculazioni a livello mondiale. Guarda, scusa, ti devo interrompere, abbiamo un problema tecnico, si sente tutto vattato. Ti richiamiamo tra 5 minuti. Ok. Un secondo, scusami, Niente. E così posso pure mettere Kalashnikov. Rimetto quella di prima. Rimetti quella di prima, è stata interrotta ancora con Kalashnikov. Va bene, eh? Fuori controllo come schegge, fuori dalla legge, fuori dal copione d'una fiction che non regge. Il gregge volge sordo al precipizio, il lupo paga il prezzo del supplizio. Perde il pelo ma non perde il vizio, a comizio dalla rupe. Chiama i lupi e le sue lupe, facce cupe che si scrutano nel buio, nel garbuglio delle voci tra gli audaci che scompaiono. Nel pantano dove gli angeli si infangano, si infrangono. Tirpide illusioni contro l'ordine dei cloni. decisioni, le opinioni sono carta straccia. Ed ecco recuperato il collegamento, speriamo che adesso funzioni. Ci stavi raccontando la giornata del 14, ci senti? Sì, vi sento. Ottimo. Allora, niente, raccontaci quello che avete fatto. Niente, appunto, siamo tornati in piazza per la seconda volta in due settimane con l'Anti-Dance Tour, anche che è un po', diciamo, una prima concretizzazione della campagna Safe School of Dance. Il 7 siamo entrati nella sede della Moody's, il 14 siamo entrati nella sede di Goldman Sachs, che è una delle più prestigiose banche a livello mondiale, secondo le classifiche appunto del mondo della finanza, quindi poi per noi vuol dire tra i primi speculatori, no? Dei nostri soldi. E appunto abbiamo portato in piazza la campagna Safe School of Dance e abbiamo finito tutta la sede della Fininvest, perché era anche il giorno in cui si è votata la fiducia al governo Berlusconi. Siamo andati con i cartelli in ottava al Premier, portando la sfiducia della piazza e il messaggio del cacciare Rice. È possibile e è sempre anche più necessario, fino a tutta la sede della Fininvest. È da dire che quello che chiamiamo il deposito era protetto da uno schieramento di fortuna molto impressionante, c'erano i ricordi di un certo studentesco che non si era mai visto. Anche molto semplicemente ci può incazzare ancora di più quanto spendere su queste cose e quanti soldi che potrebbero investire sulla scuola. È andato molto bene, c'erano decine di migliaia di studenti, per 10.000 dai collettivi portati dai collettivi autonomi, quindi una giornata assolutamente positiva. Guarda, ti ringraziamo, si è sentito poco, noi abbiamo capito, non sappiamo se in linea è andato bene, cioè abbiamo qualche problema col telefono, comunque ti ringraziamo, leggeremo qualche passo dal comunicato. Perfetto, grazie. Grazie a te, ciao, buon pomeriggio. Beh, ecco, appunto, abbiamo chiuso adesso questo collegamento, purtroppo malandato, ogni tanto ci capitano questi problemi tecnici. Comunque, in sostanza, la compagna diceva che sono entrati in alcune delle banche più lussuose di Milano, e più responsabili, insomma, quelle identificate più responsabili di questo debito, di cui ci dobbiamo adesso fare carico noi, e facendo delle azioni dimostrative, delle azioni, come possiamo dire? Eh sì, perché erano ormai più di 10.000 in piazza quel venerdì, il giorno che ricordiamo della fiducia a Berlusconi. Uno degli slogan era: ma quale fiducia, no alla fiducia, Safe School Not Banks, che poi la corrispondenza da Milano ha ben inquadrato qual era l'animo della giornata, in cui si sono andati a colpire anche non solo agenzie di rating ma stessi bancomat o vetrate di banche. Ecco, anche insomma, questo lo ripetiamo ancora una volta, è un obiettivo del movimento, perché insomma, in un certo senso abbiamo identificato i nemici, insomma, quando nel 2008 si scendeva in piazza contro la riforma della scuola. Adesso si scende in piazza per portare avanti delle lotte più ampie, perché ci stiamo cominciando a preoccupare della situazione di noi come giovani e non solo come studenti. E anche durante il 15 ottobre, durante la manifestazione, sono state attaccate banche, i giornali un'altra volta hanno travisato quelle azioni trasformandole in singoli episodi di violenza che in realtà hanno un filo conduttore tra di essi, e sono delle azioni diciamo sensate, che hanno un obiettivo. Appunto, l'obiettivo tra i tanti sono le banche,

Ecco, come appunto diceva il nostro anarchico pigro Fabrizio De André, se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza feriti, senza granate, vuol dire continuate a credervi assolti, siete per sempre coinvolti. E sull'onda di questa canzone parliamo ancora delle ultime mobilitazioni del 15 e di tutte le mobilitazioni che sono venute dietro, insomma, che precedevano, che antecedevano il 15 e che hanno fatto sì da creare un ambiente favorevole a questa manifestazione così popolosa. E proprio per questo abbiamo in collegamento da Torino un compagno. Ci sei? Sì, ci sono. Perfetto. Ecco, noi leggevamo dai media indipendenti su internet che domenica c'è questa iniziativa del movimento Notav intitolata Diamoci un taglio. Ti volevamo chiedere, insomma, visto che questa trasmissione dà spazio agli studenti, tu sei uno studente e il movimento ha in una grande partecipazione di studenti, ti volevamo chiedere se ti andava di raccontarci un po' di che si tratta. Sì, certo. Allora, parto da una premessa brevissima. Il movimento Notav, come si sa, è un movimento molto composito, con un sacco di anime. In questa lunga estate si sono determinate un sacco di situazioni veramente interessanti, partecipate e variegate, che diciamo hanno portato ad un innalzarsi delle prospettive e a far diventare il movimento Notav quasi un simbolo per i movimenti, qualcosa di più di un simbolo, anzi una dimensione concreta da proteggere, portare avanti e continuamente rinvigorire e rifar vivere, perché il Notav non è più solo Notav, ma vuol dire anche rifiuto del debito, vuol dire anche rifiuto di questa casta così com'è. E in un certo senso il titolo di questa iniziativa deriva proprio da quello, no? Deriva dal fatto di dire siamo Notav e ci vogliamo dare un taglio a questo debito, vogliamo dare un taglio a questa cassa, vogliamo dare un taglio a tutta questa serie di personaggi che cercano di fare le loro speculazioni sulla nostra pelle. Appunto, come ben sappiamo, l'ultima manovra finanziaria più o meno equivale ai costi del TAB, per cui se il TAB non fosse fatto, fondamentalmente avremmo di sicuro una manovra in meno che pesa sulle nostre spalle. E quindi parlare di Notav è anche parlare di questo, è parlare di molto di più, non è semplicemente difendere un territorio, non è semplicemente un branco di contadini che vuole che i loro campi restino in mano a loro, ma è molto di più, vuol dire anche, per quanto sia legittimo benissimo anche l'altra prospettiva, vuol dire anche difendere insomma il nostro diritto a sopravvivere e confrontarsi in maniera conflittuale con la crisi. Appunto, dentro questo si è deciso di fare questa iniziativa che in un certo senso è diversa da quelle precedenti, ma è comunque legata profondamente alle altre iniziative che si sono vissute in valle, come la Libera Repubblica della Maddalena, lo sgombero della Libera Repubblica, oppure il 3 luglio, con tutto quello che ha rappresentato e con la sua importanza vitale, con la sua capacità di esprimere, insomma, addirittura un ribaltamento dell'uscita mediale che hanno fatto i media mainstream, e quindi la capacità di rompere l'assedio, no? Proprio in tutti i sensi, di rompere sia l'assedio militare, ma anche di rompere l'assedio mediatico. E in quel senso anche questa giornata marcia nella direzione di rompere gli assedi, di cercare ancora una volta di dimostrare che il movimento Notav è molto vario e con intelligenza politica sa bene dove posizionarsi, come costruire le proprie iniziative. E quindi si è deciso insomma di fare questa iniziativa, che sarà probabilmente un taglio alle reti di giorno a volto scoperto, insomma dicendo noi non abbiamo niente da nascondere, non abbiamo paura di niente, abbiamo voglia di metterci in gioco completamente con i nostri corpi, con la nostra forza e con il nostro coraggio per poter dire e poter anche delegittimare tutto quel discorso che vuole i Valsusini, o meglio il movimento Valsusino, notato come invaso da branchi di Black Bloc, o comunque di queste figure mitologiche che ogni volta partorisce il media mainstream per delegittimare i movimenti. Insomma, è come dire, come dopo il 3 luglio in valle uno dei motti più potenti era "Miss un Black Bloc", che vuol dire "anch'io sono un Black Bloc", e sentire le vecchiette che dicevano "siamo tutti Black Bloc", anche questa volta in un certo senso, in un ribaltamento, vuol dire noi siamo pronti a metterci in gioco, ad andare avanti, a continuare la nostra lotta, e non abbiamo paura di mostrare le nostre facce, anzi abbiamo totalmente voglia di metterci in gioco. Ecco, quindi diciamo che stai parlando di una manifestazione che ha una valenza molto forte, perché comunque stiamo tagliando delle reti che se delimitano un campo che ormai sta diventando privato, su cui verrà fatto un cantiere che costerà migliaia di euro, in cui abbiamo visto un impiego di forze pubbliche straordinario per difenderlo. E tu ci stai anche dicendo che parteciperanno famiglie, anziani, tutti allo stesso modo, tutti a volto scoperto, però tutti facendo un'azione di forzatura nei confronti di quest'area molto, molto interdetta, diciamo, quest'area quasi vietata all'accesso. E quindi come vi siete organizzati in caso di una carica della polizia? Siete disposti a essere caricati? Come avete intenzione di continuare la giornata, di programmarla poi? Ecco, come dici tu, sicuramente la dimensione che ci interessa e che è sempre interessata al movimento NoTab è quella popolare, cioè la capacità appunto di vedere dalla vecchietta al ragazzino. Infatti la forza del movimento NoTab è proprio questa, con una cesoia in mano a tagliare quelle reti. Non è pura velleità mediatica, nel senso che nessuno ha intenzione di tagliare 2 metri di rete e poi andarsene per fare solo l'uscita mediatica, ma è proprio l'intenzione di dire surreale, di dire veramente noi siamo un movimento popolare, composito, che è capace di battere la controparte anche su questo, anche a volto scoperto, anche dicendo noi non ci siamo. E quindi ovviamente la giornata si svilupperà non solo attraverso quello che faremo noi, anche attraverso quello che farà la controparte, e staremo a vedere. Adesso dire quello che succederà è un po' anacronistico, però sicuramente l'intenzione è quella di cercare di tenere la dimensione sempre più larga possibile e riuscire a comprendere sempre più gente, e più voglia di fare le cose, e più voglia di costruire nuove iniziative, come sempre nelle differenze, ma anche nell'unicità di questo movimento, che è veramente capace di superare qualsiasi barriera. E quindi ci fa un po' sorridere leggere sui giornali "paura Black Bloc in Valsusa", perché nessuno ha paura dei Black Bloc, ma soprattutto nessuno ha paura di questo non cantiere, come amiamo definirlo, perché non c'è nessun cantiere, è semplicemente un fortino dove fondamentalmente che è diventato un po' il simbolo della speculazione sulle nostre teste, un fortino dove si difendono gli interessi di alcuni e si invece tagliano le gambe a tutti gli altri. E in questo senso, come dire, diciamo che c'è anche un filo comune con quello che ha rappresentato anche il 15 romano, no? Al di là della dimensione poi polemica e di tutto il resto del discorso, quello che forse ci interessa di più del 15 romano è stato il fatto che un sacco di gente, un sacco di persone, di ragazzi comuni, anche non provenienti, anzi la maggior parte non provenienti da nessuna realtà politica, è stata capace di mettersi in gioco in una dinamica resistenziale, di resistere alle cariche della polizia, certo, ovviamente cercando di mettersi in gioco, mettendo in gioco i propri corpi. E allora ci viene da dire che di sicuro definire questa gente Black Bloc militarizzati è pressoché un'assurdità, è soltanto un gioco dei media mainstream, e in questo senso ci piace pensare e dire che comunque La potenza di quel 15 è stata in questo. Poi al di là di tutto sicuramente è una giornata ambigua da rileggere, da rivedere, da capire, da su cui riflettere, anche come soggettività nei movimenti, no? Sicuramente è una giornata su cui ci dovremmo dire tante cose, ma dentro questo indubbiamente la dimensione più interessante è proprio che quel Miss un Black Block, quel siamo tutti Black Block, quel non esiste nessun Black Block, sta anche nella quotidianità di molti di noi, quel dire siamo precari, siamo incazzati, siamo indignati, e siamo pronti a metterci in gioco. Certo, la Valsusa sarà un campo interessantissimo e per l'ennesima volta dimostreremo a tutti come non abbiamo nessun problema a rileggerci, a rimetterci in movimento, a analizzare la fase e mettere le nostre facce davanti a quelle reti, a tagliare quelle reti, a dire boh, noi in prima posizione ci saremo, non avremo problemi ad affrontare questa crisi, a dare un taglio a questa crisi, e boh, questo direi che è già abbastanza. Ecco, perfetto. Ti ringraziamo della tua testimonianza, del tuo apporto, anche perché ti stavamo per fare la domanda sul 15, ma tu ci hai letto nel pensiero e hai già risposto a tutte le nostre domande che ci eravamo preparati, quindi ti ringraziamo ancora e rilanciamo sia l'appuntamento in Val di Susa domenica che i vari appuntamenti che sono stati lanciati e verranno lanciati qui a Roma per appoggiare la Val di Susa senza dover andare così lontano. Quindi abbiamo sabato e domenica qui a Roma alcune assemblee che verranno, Notav Tour dicono che si chiamerà questa assemblea. Quindi adesso chiudiamo brevemente il nostro programma, visto che le femministe già sono pronte in sala, con una bella canzone, no? Guarda, sì, adesso chiuderemo sicuramente con la nostra sigla. Noi ti ringraziamo ancora e sicuramente ci potremo sentire la prossima settimana per fare un resoconto di quello che è stata la giornata, in modo che anche qui a Roma potremo sapere bene quello che è successo. Grazie a voi, grazie per le iniziative che verranno fatte, perché appunto Notav vuol dire molto di più. Un saluto e solidarietà alla Valle che resiste. Ciao, grazie. :17:14, 16 adesso, sono pronte di là per il martedì autogestito da femministe e lesbiche, le ragazze che adesso entreranno in studio magari ci vogliono fare un saluto. Oppure ci scannano vivi per il ritardo, le compagne. No, ma te li tieni benissimo. Ecco, hanno già fatto irruzione nello studio. Come al solito dopo ci ammazzeranno. Va bene, noi vi lasciamo alla nostra sigla. Adesso inizierà il programma che andrà avanti fino a stasera alle 11. Chiudiamo come al solito con gli assalti frontali, cattivi maestri. Grazie ancora, buon pomeriggio da Radio Onda Rossa, una buona serata. Stessa giungla, maltra vita, altri occhi quando la sei lunga. Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi. Abite, cassaforti, borse, fori, soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade Palinuro, e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme serro le fila. Ma a testa china, la comunità si raffina. Come va? Che fa